farfalla appesa cade giù. Ah, succede anche a me. È uno dei miei limiti. Io per niente vado giù. Se ci penso mi dai brividi. Me lo dicevi anche tu. Dicevi tu. Sento l'odore della città. Non faccio niente, resto chiusa qua. Ecco un altro dei miei limiti. Io non sapevo dirti che solo pensarti mi dai brividi. Anche a una stronza come me. Come me. Sono io, anche se non ho letto Freud, so come sono fatta io, ma non riesco a sciogliermi, ed è per questo che sono qui, e tu lontano dei chilometri, che dormirai con chissà chi, adesso lì.